Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone, un'ora di musica. Sì, oggi ci sarà molta musica e cominciamo con questo brano. Non siete padroni della terra. Oh! Strappate tutti i segreti alla natura, non ci sarà più niente che vi farà paura e sarete voi a far girare la terra con un filo come una trottola dall'alto di una stella. Ancora da conquistare, da quella stella per tutto l'universo. L'uomo si spazia per superare se stesso. Dopo guerra siete, non siete padroni della terra. Non vi fermate, dovete costruire la vostra torre. La torre di Babele si deve fare e serve a dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale. È superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale. La Torre di Babele, Edoardo Bennato. Beh, un tema che immagino moltissimi dei nostri ascoltatori ricorderanno. Era il 1976. Banzo, innanzitutto, bentornato, buon pomeriggio, ti immagino più ergonomico che mai. E, insomma, diciamo e sveliamo subito l'arcano, diciamo ai nostri ascoltatori di che cosa parleremo quest'oggi, perché lo diciamo subito, non è una puntata dedicata interamente a Edoardo Bennato. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Non è neanche dedicata alle lingue del mondo, non parleremo dello Swahili e del Basco, perché la Torre di Babele effettivamente è un aneddoto biblico che ci rimanda un po' alla linguistica, ma parleremo più coerentemente forse di canzone d'autore, che è uno dei temi, diciamo, più vocazionali di Zibaldone, quindi siamo proprio nel nostro elemento, diciamo. E passo ad annunciare il titolo della puntata, che è Voci Libere. Eh sì, perché è anche il titolo del libro di cui parleremo quest'oggi e ne seguiremo un po', appunto, Banzo, il fil rouge. Voci Libere, storia della canzone d'autore italiana di Luigi Cuna ed Emanuele Felice, che saranno tra poco nostri ospiti, con le illustrazioni di Alessandro Ventrale. Le illustrazioni sono molto importanti, questo libro, ne parleremo poi anche con Cuna e Felice. Pubblicato da pochissimo per le edizioni Curci. Banzo, Bennato nel 2021 ha scritto nel momento in cui si è ripubblicato, no, il disco La Torre di Babele, che appunto conteneva anche il brano omonimo con cui abbiamo aperto lo zibaldone di quest'oggi. La Torre di Babele, scriveva Bennato, rappresenta il caos, la confusione, rappresenta l'incapacità delle fazioni politiche di trovare un punto d'incontro. La Torre di Babele era attuale nel 76 e più che mai attuale adesso. Ecco, nel 21 lo diceva, e poi quello che è successo nel 22, nel 23, nel 24, nel 25, è ancora direi più attuale. E aggiungeva: ma guarda, non lo so, perché lì è anche soggettivo, perché in un certo senso a me il clima di contrapposizione, la guerra fredda, mette sempre più in soggezione. Però adesso, se vogliamo, il contesto politico è sicuramente più caotico, perché la sensazione, non so che ci sia, non che ci siano dei battitori liberi, ma che possano succedere cose completamente fuori dagli schemi, forse è più forte adesso. Sì, assolutamente sì. E ascolta, aggiungeva anche Bennato, quel fatterello biblico è semplicemente un modo per far capire che se non si rispettano le leggi della natura e se non si parte da un principio e da un codice, il caos è totale. Ecco, appunto, quello che sta succedendo forse oggi. Ho cercato di tirare fuori questa simbologia sia nelle canzonette sia nella copertina, che mi è costata più fatica che scrivere le canzoni dell'album. Infatti andatevela a cercare, la copertina della Torre di Babele, che è molto bella. Banzo, in quel disco Bennato, insomma, passava più a essere blues rock dei precedenti dischi. Sì, diciamo che Bennato è anche un nome che viene molto collegato alla musica rock in italiano, e forse questa svolta stilistica, che poi sarà decisiva nell'immagine, nella percezione di Bennato del grande pubblico, parte proprio da qui. Quindi è un disco molto importante nella sua evoluzione, e uno strumento, avete ascoltato il brano, che ha una grande rilevanza in questa canzone, è il sassofono di Robert Fix. E qui dice un brano del 76, perché effettivamente il sassofono della musica pop è una cosa che ho detto altre volte, credo. Poi conosce un momento di massimo splendore, forse negli anni 80, e da allora sparisce un po'. Non ci sono più tante canzoni pop col sassofono. Sì, vero, vero. C'era anche Tony Esposito, che già accompagnava fin dai primi anni Bennato alle percussioni, Roberto Ciotti alla chitarra, Gigi De Rienzo al basso. Ecco, Bennato è uno degli artisti che Cuna e Felice raccontano nel loro libro, ma un altro anche, e così insomma andiamo ad ascoltarci un altro brano, Banzo, è Bruno Lauzi, e noi vi proponiamo una canzone particolare, fine anni 80, Naviganti. Esatto, perché in realtà sono due artisti in uno, stavo per dire al prezzo di uno, ma sarebbe stata una scelta di parola abbastanza infelice. Ecco, due artisti in uno, perché il brano Naviganti è stato scritto da Ivano Fossati, che appare a sua volta in Voci Libere, e d'altronde in una panoramica sulla canzone d'autore italiana non potrebbe essere diversamente. Non la immagino né senza Fossati né senza Lauzi. E diciamo che appunto questo brano sono i classici due piccioli con la fava, perché abbiamo un brano scritto da Fossati e interpretato da Lauzi nella prima versione, dove il titolo e alcune delle metafore, abbiamo i naviganti, i corridori di corsa in salita, descrivono l'avventura della vita, ecco, che è ovviamente la vita, le sue difficoltà, i suoi saliscendi sono ovviamente la materia primaria della canzone d'autore in quanto tale, direi. È proprio una musica che nasce per riflettere sulla vita, poi lo fa anche la fantascienza, però capisci, è un punto di vista completamente diverso, ecco. La musica del mondo, questo è il titolo di quell'album dell'88 di Lauzi, un album molto raffinato, e poi insomma vale la pena ricordare che Lauzi comunque aveva interpretato tante canzoni scritte da altri, da italiani come Endrigo, Paolo Conte o Battisti, ma fino anche a Paul Simon, oltre al suo amore per il jazz. Ce l'andiamo ad ascoltare e poi cominciamo questa intervista con Emanuele Felice e Luigi Cuna. Siamo stati naviganti con l'acqua alla gola, questo bello andare, quello che ci consola è che siamo stati lontano e siamo stati anche bene e siamo stati vicini e siamo stati insieme. Siamo stati contadini noi due, senza conoscere la terra, e piccoli soldati, senza amare la guerra. Ci hanno mandati lontano, senza spiegarci bene, e siamo stati male, e siamo ancora insieme. A grandi corridori di corse in salita che alzavano la testa dal manubrio per vedere se fosse finita. Allenati alla corsa, sì, allenati alla gara e preparati a cadere a tutto quello che si impara. Della sera, innamorati della luna, conoscitori della notte senza averne paura, innamorati di quel fiore che non vuole mai dire, ecco è tutto finito e bisogna partire, ora è il momento di mettersi a dormire, lasciando scivolare il libro che ci ha aiutati a capire che basta un filo di vento per venirci a guidare, perché siamo naviganti senza navigare. Eh beh, questo l'avete riconosciuto, ve l'avevamo anche già detto, Bruno Lauzi, Naviganti, un brano forse meno conosciuto, fine anni 80. Perché Lauzi, perché Bennato? Ve l'abbiamo detto per parlare di questa nuova pubblicazione uscita da poco, Voci Libere, storia della canzone d'autore italiana, di Luigi Cuno e Emanuele Felice, con illustrazioni di Alessandro Ventrella, uscita da poco per Edizioni Curci, che è un libro molto interessante. Però per parlarne innanzitutto do il benvenuto e anche un buon pomeriggio agli autori di questo libro, Luigi Cuna e Emanuele Felice. Benvenuti a Zibaldone. Ciao, ciao. Ciao Steven. Allora, è un piacere che insomma, siete qui con noi questo pomeriggio, perché insomma, noi qui a Zibaldone in questi anni abbiamo parlato spesso della canzone d'autore italiana, abbiamo seguito insomma anche le molte pubblicazioni che continuano ad uscire, e il vostro libro è un libro particolare perché non è un libro classico, ma è un libro innanzitutto pensato per il grande pubblico e per avvicinare anche i giovani, i ragazzi al patrimonio della canzone d'autore italiana, e dall'altro poi insomma racconta quasi una settantina dei grandi nomi della canzone d'autore italiana, accompagnandoli con delle immagini. Ecco, Luigi, innanzitutto passo la parola a te perché tu possa un po' spiegare anche com'è nato questo progetto e perché vi siete imbarcati in un lavoro che immagino non sia stato facile. Grazie Steven, sì, hai detto proprio giusto, non è stato facile ma è stato bellissimo. Perché questo libro nasce da un evento di quelli che capitano a volte nella vita e a cui poi rifletti, ci pensi su e dici ma questo avvenimento ha un significato. Ero in un agriturismo con la mia famiglia, io ho tre bambini d'età, hanno 11, 9, 4 anni, e c'è una ragazza di Napoli, faceva musica, una ragazza bella, allegra, divertente. Insomma, nel chiacchierare con lei, nel mettere un po' di playlist su Spotify, dissi ah, puoi mettere per favore la canzone di Carosone, Caravan Petrol, perché in quel periodo là mio figlio piccolino la fissano con Carosone. Mm. Questa mi guarda, mi fa, chi come si chiama? Carosone, cioè grande nota Carosone. Mi dice qualcosa, ma non lo conosco molto bene. Ah, in quel momento Steven mi sentivo un po' indignato da genitore, da persona appassionata per la canzone italiana, vivo all'estero come te e quindi come tanti altri ragazzi che ascoltano a De Contrabanda, e per noi l'identità italiana della nostra storia è tanto importante, tanto significativa, e sentì bisogno di fare qualcosa. Quindi guardavo intorno a me i vari libri, pubblicazioni su cantautori, ed è vero che noi abbiamo delle biblioteche piene di bellissimi libri che sono molto di approfondimento, di critica, di analisi di questi grandi autori del passato, ma mancava fino a qualche tempo fa un libro che avesse, che fosse stato concepito con un chiaro intento divulgativo, non per entrare nel dettaglio, non per andare a vivisezionare le liriche o la musica di un certo autore, ma semplicemente per aprire le porte. E così nato dopo Cidiber. Ho chiamato mente Lele, mio amico da tempo di università, ho detto: Lele, ti va di lavorare insieme a un libro nuovo, un libro che non c'è ancora in giro, un libro che possa davvero colmare questo vuoto? Abbiamo unito le forze, la mia passione, la sua passione, e anche, diciamo, la sapienza grafica, la sensibilità di Alessandro, illustratore giovanissimo, ma con un bellissimo curriculum alle spalle di pubblicazioni e illustrazioni, e con una grande sensibilità verso questa grande pagina canzone italiana. E andò così Voci Libere. Ascolta, non è facile, no, dire, beh, insomma, da quest'idea che tu ci hai raccontato, poi ecco, trasformarla in un libro, dire va bene, ma come lo racconto, insomma, che autori scelgo, qual è un po' il fil rouge di questo libro, ecco, come avete un po' organizzato questo racconto, pensato anche per i più giovani, ma non solo i più giovani, con uno sguardo e una volontà divulgativa, come tu ci spiegavi, Luigi. Non so se vuoi intervenire tu, se vuole intervenire Lele. Sì, no, abbiamo organizzato il racconto, è stato bello, cioè ci siamo confrontati molto, più volte, e abbiamo seguito un filo a un tempo tematico e cronologico, cioè per grandi temi che però grosso modo seguono anche un'evoluzione della canzone d'autore italiana dagli inizi fino ai nostri giorni. Abbiamo scelto i cantautori nati entro il 1958, l'anno in cui Domenico Modugno a Sanremo porta a volare forse la canzone più nota in Italia come simbolo. E poi su questo appunto ci siamo confrontati molto. È un libro pensato per il grande pubblico, ma come direi, grandi libri pensati per il grande pubblico non è affatto facile. Ogni parola, ogni frase è stata centellinata, scritta, ragionata, e quindi è un libro leggero che però dietro questa leggerezza ha un grande lavoro. Ed è un grande lavoro nello scriverlo, ci siamo resi conto che abbiamo raccontato una storia di libertà, infatti da cui il nome, e una storia di una grande cultura, di un popolo grande, un paese grande, qual è il nostro. Questo, guarda, su questo vorrei dopo rientrare, ma voglio fare anche una piccola pausa anche per permettere ai nostri ascoltatori un po' come anche pensato il vostro libro, perché ad esempio noi ci siamo ascoltati prima, lo dicevo, una canzone di Bruno Lauzi, no? Bruno Lauzi è uno dei grandi cantautori della prima infornata, insomma di quella che si è conosciuta come scuola genovese. Voi lo inserite in un capitolo intitolato Come un concerto, ecco, e a fianco di Bruno Lauzi ci sono appunto gli altri membri un po' della prima infornata della grande canzone d'autore italiana: Gino Paoli, Umberto Bindi per rimanere a Genova, o anche Luigi Tenco ovviamente, ma anche Sergio Endrigo e Piero Ciampi. Ecco, su Bruno Lauzi, sempre accompagnato da una bellissima immagine, c'è poco più di una pagina e mezza. Ecco, come raccontare in una pagina e mezzo scarsa, ad esempio, una figura che ha avuto una carriera di praticamente mezzo secolo, forse anche di più, adesso non ricordo bene, come Bruno Lauzi. Luigi, insomma, questo è una sfida non da poco, direi. Guarda Steven, assolutamente, è stata una sfida bellissima, perché è stata la sfida che ha, diciamo, contraddistinta l'obiettivo di trovare un filo conduttore, un filo narrativo che sapesse incuriosire il lettore. Non possiamo essere esaustivi, sarebbe appunto una sfida troppo impossibile in una pagina e mezza. ma come per Laus e anche per tanti altri autori, ma era importante per noi dare per ogni autore il senso dell'importanza di ognuno di questi nel grande quadro della canzone d'autore italiana. Quindi con Bruno Laus mettiamo in evidenza il suo coraggio, la sua allegria, la sua indipendenza, dalle canzoni appunto più romantiche, più d'amore come Ritornerai, fino anche alle canzoni per bambini. Menzioniamo nel libro Il Co delle Puzzole, in cui emerge un ricamo di chitarra di Ivan Graziani. Quindi l'importante è anche trovare quelle piccole chiavi che per ogni autore possono aprire una conoscenza. Il libro non è un libro che botta a, diciamo, non si sostituisce l'ascolto una cosa scritta. Il libro aiuta e apre la porta per l'ascolto, e questo è stato l'obiettivo che abbiamo cercato di seguire per ogni autore. Non c'è nessuna scheda che comincia con la stessa parola. Ogni scheda comincia con un'immagine, una frase, qualcosa che possa aprire la porta alla conoscenza. Anche perché sennò il rischio appunto era quello di fare una specie di medaglioni stile Wikipedia, che al giorno d'oggi appunto sembrerebbero quasi poco utili, no? Visto quello che ci permette anche di conoscere il digitale, al di là del fatto che voi qui avete raccontato appunto tutto un patrimonio culturale e non solo cantautorale che riguarda l'Italia. Emanuele, a questo proposito, prima insomma tu già lo accennavi, che immagine viene fuori appunto? Tu dicevi quella di un grande paese. Ecco, l'Italia che adesso invece insomma sembra navigare in ben altre acque, non solo politicamente parlando ma anche culturalmente. Qui invece ci mostra un paese che è stato vivo, un paese che ha prodotto appunto nella canzone, ma anche in fin dei conti nella poesia, che si lega molto alla canzone d'autore, un patrimonio incredibile per un paese in fin dei conti piccolo a livello mondiale, no? Che non può competere con gli Stati Uniti o con altri paesi. Una lingua anche insomma ristretta, che si parla in fin dei conti solo quasi all'interno delle frontiere italiane, al di là insomma di tanti expat o emigranti. Ecco, come questa radio dimostra, certo, però insomma non è lo spagnolo, non è il cinese, non è l'inglese, non è l'arabo. Ecco, e in fin dei conti anche il titolo mi dà l'idea che Voci Libere, questo riassume un po' anche l'immagine che voi avete avuto ripensando a tutta questa traiettoria. Raccontaci un po' cosa c'è sotto di interpretazione in fin dei conti. Sì, guarda, come ha detto Luigi già, ogni cantautore ha una sua chiave, però in comune questi cantautori hanno appunto una forza espressiva fondata sulla libertà e un'apertura al mondo che è molto diversa dall'Italia che appare oggi, che è un'Italia piccola, paurosa, in declino. E effettivamente questa canzone d'autore italiana è stata una colonna sonora di una parte della storia d'Italia, che è stata una storia di ricchezza e di crescita, di espansione del nostro paese, dagli anni 50 quando inizia fino agli anni 90, perché negli anni 90 che inizia il declino dell'Italia. Ed effettivamente ora la canzone italiana nel mondo, per una serie di vicende storiche, è meno nota del cinema italiano. L'Italia ha, però questa Italia che ha avuto una grande espressione nel cinema, che ha affascinato il mondo, in realtà secondo noi ha avuto anche una grande espressione nella canzone, meno nota a livello mondiale, un po' conosciuta, ma meno nota rispetto al cinema. Però io credo, poi io sono appassionato di canzoni, insomma conosco bene anche quelle di altri mondi, di altri popoli ed altre lingue, credo che sia una storia altrettanto bella e altrettanto ricca. In effetti nello scriverla, nel mettere insieme, nel cercare il quid di questi artisti talmente vari e affascinanti, e viene fuori questa, viene fuori una grande storia culturale, è una storia di apertura al nuovo, di innovazione, di libertà, come si è già detto, e pur in una diversità di opinioni, di idee, però è un'Italia che insomma rappresenta una grande nazione nel mondo da questo punto di vista, e e si ha un po' l'impressione, purtroppo, che sia una storia, cioè che questa storia racconti un'Italia del passato e non più l'Italia che è oggi, che vive un po' di rendita anche dal punto di vista della canzone. Se posso aggiungere una piccola cosa su quello che hai detto tu, questa diversità della canzone italiana è stata catturata anche molto, in maniera molto sapiente dalle illustrazioni, che hanno comunque una varietà e un range di sfumature, colori e toni, che dà proprio il senso della complessità, della diversità e della ricchezza del nostro patrimonio culturale, della nostra canzone. E un'ultima domanda sul libro. Dicevamo prima che sono 69, no? Gli artisti, i cantautori contenuti in Voci Libere, da Fred Buscaglione o Renato Carosone, che nominava appunto Luigi, che è stato un po', no, lo stimolo per sviluppare e portare a compimento questo progetto, fino a Max Manfredi, Giorgio Conte, Mario Castelnuovo. Ecco, vi siete fermati al 58. Quindi la prima domanda che volevo fare è: ma in questo viaggio e in queste ricerche anche per poter scrivere questo libro, c'è stato qualcuno di questi 69 artisti che voi forse avevate un po' lasciato da parte nei vostri ascolti degli anni scorsi e avete invece riscoperto, rivalutato? Luigi, se vuoi cominciare, poi Emanuele. Questa, Steven, è la mia domanda preferita, perché permette di introdurre una figura che per me è incredibile, è un'artista straordinaria, poco conosciuta, ma di una ricchezza musicale, di testi, piacevole da ascoltare, moderna. Parlo di Giuni Russo. Giuni Russo per me è stata la scoperta più bella di questo viaggio. Emanuele? Ma guarda, io potrei dire un artista che mi ha sempre affascinato, però ho dovuto approfondirlo un po' per scrivere quelle pagine, ed è in particolare Angelo Branduardi. Angelo Branduardi è un artista di una ricchezza musicale, di una conoscenza musicale, che peraltro si è espresso anche in lingue non nostre molto bene, ha cantato in diverse lingue, ha conquistato i palcoscenici dell'Europa, ed è riuscito a portare, sempre per restare alla storia della canzone italiana, è riuscito a portare una tradizione musicale italiana importantissima, quella del 500, del 1600, in una forma pop, e dandogli un successo. E secondo me è un artista, è uno dei grandi cantautori che noi sottovalutiamo un po'. È importante, no, mostrare anche questa cosa, perché poi si pensa sempre un po' a questi numi tutelari, questa svacca sagradas, no, come si dice invece in spagnolo, della musica, e dici vabbè, non c'è più molto da scoprire. Invece c'è ancora tanto da scoprire, ci sono nomi da riandare, no, a studiare, a ascoltare. Andiamo ad ascoltarci un brano di Giorgio Gaber, chiedo scusa se parlo di Maria, era il 1973, poi rientriamo per ancora un paio di chiacchiere con voi, perché insieme a questo libro c'è anche un'altra cosa, un'altra sorpresa, ma prima andiamo a ascoltarci Gaber. Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene. Quando dico parlare di Maria, voglio dire di una cosa che conosco bene. Certamente non è un tema appassionante in un mondo così pieno di tensione. Certamente siamo vicini alla pazzia, ma è più giusto che io parli di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti. Interesso di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti. Interesso di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Se sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà, la paura, la tensione, la violenza. Avrei capito il capitale, la borghesia, ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, Maria, la realtà, Maria, la realtà. E ritorniamo qui in diretta dopo questo brano. Chiedo scusa se parlo di Maria, era il 1973 di Giorgio Gaber, perché oltre a essere appunto uno dei 69 cantautori presenti in Voci Libere, storia della canzone d'autore italiana di Luigi Cuna e Emanuele Felice, con le illustrazioni di Alessandro Ventrella, a Gaber avete dedicato proprio un altro libro, un libro di, insomma, quante pagine sono? 130 pagine, che non è solo un medaglione, per così dire, di Gaber, ma è proprio un libro vero e proprio, con un'analisi delle sue canzoni, della sua vita, con parecchie illustrazioni in stile graphic novel, e poi appunto tutto uno studio su la discografia di Gaber. Ecco, Emanuele, come mai questo secondo libro, diciamo, che accompagna il primo e su un artista è uno studio a tutto tondo? Sì, in realtà per certi versi viene prima del primo libro, è stato quasi una prova generale, e perché Gaber è un artista che ha descritto la storia dell'Italia, che ha raccontato l'Italia dagli anni 60 agli anni 90, e come pochi hanno saputo fare. Probabilmente Gaber, tra i grandi, per esempio, è quello che, stranamente, o forse perché aveva un parlato molto, molto importante, però è quello che meno si è affermato all'estero, però è uno degli artisti di originalità maggiore, cioè lui inventa un genere pratica che è il teatro canzone, come è noto, e che io, cioè, non riesco a trovare all'estero equivalenti di Gaber, di quello che fa lui e di come. E con questo genere, io poi che faccio di mestiere lo storico, come sai, come anche sei stato spesso ospite genere, parlando Gaber di storia, racconta e reinterpreta l'intera storia dell'Italia, cioè noi possiamo capire quello che sono stati gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80 anche, e anche dopo gli anni 90, attraverso le canzoni e i testi di Gaber. E quindi era un po', diciamo così, l'artista con il quale iniziare questo viaggio e sul quale era anche più facile approfondire maggiormente. Tra l'altro, no, il brano che abbiamo sentito, chiedo scusa se parlo di Maria, è contenuto in Far finta di essere sani. Siamo nel 1973 e voi scrivete appunto nella descrizione di questo album che vorremmo poter pensare alla libertà, alla rivoluzione, alle grandi idee, ma abbiamo perso la capacità di conoscere noi stessi, di valorizzare le persone preziose che abbiamo intorno. E dirlo è scomodo, canta Gaber, chiedo scusa se parlo di Maria. Non si possono conseguire i grandi cambiamenti, siano essi sociali o politici, senza un cambiamento prima nei valori di ciascun individuo, fatto di corpo, sentimenti, relazioni. Gaber, insomma, è stato Luigi un artista assolutamente unico e, come dice Emanuele, è, insomma, difficile da esportare e di cui è difficile trovare un parallelo in altri paesi, perfino in Francia. Assolutamente, assolutamente. Un artista innovativo, coraggioso, indipendente, libero da ogni possibile etichetta, che scappava l'etichetta, che odiava l'etichetta, e che è riuscito a segmentare anche concetti assodati, come lo stesso concetto di libertà, lo stesso senso di normalità, sfidando anche, diciamo, quello che possono essere luoghi comuni che vengono affermati in maniera, magari così, senza mai rifletterci troppo. Però allo stesso tempo Gaber, io ho sempre vissuto la sua musica, la sua arte, una volta, diciamo, avvolta da, noi chiamiamo nell'introduzione, da una coltre di complessità, che un po' l'ha reso un po', diciamo, patrimonio soltanto di una cerchia un po' ristretta di intellettuali, fondamentalmente. Noi in quel libro cogliamo la sfida di ripulirlo da questa coltre di complessità. E come diceva lei, ridiamo al Gaber il ruolo storico che si merita, come un narratore che ha saputo narrare il nostro pensiero, le nostre incertezze, le nostre debolezze, non soltanto a livello sociale, politico, ma anche a livello umano, perché a volte di Gaber colpiscono soltanto le canzoni politiche, quelle più conosciute, più famose, ma anche come ha descritto il rapporto tra uomo e donna, le dinamiche di coppia, le dinamiche tra i familiari. Sono canzoni bellissime e attualissime, e questo rende Gaber un artista assolutamente contemporaneo, che parla a tutti ancora oggi. Sì. Il libro, tra l'altro, in questo caso, che ha avuto anche la collaborazione della Fondazione Giorgio Gaber, pubblicato anche questo da Edizioni Curci, ha le immagini, ha le illustrazioni, scusate, di Ernesto Anderle. E tra queste, appunto, dicevo, ci sono canzoni raccontate in formato graphic novel, come anche ci aveva insegnato già, insomma, da praticamente più di 30 anni fa, Sergio Staino. E tra queste c'è anche Lo Shampoo, forse uno dei brani più conosciuti di Gaber, contenuto anch'esso in questo album del 1973 di cui parlavamo. E, per salutarci, una domanda così, insomma, curiosa sul futuro. Andrete avanti con altri libri specifici su cantautori come nel caso di Gaber, o avete già in mente di continuare le voci libere con la generazione di cantautori che è nata dopo il 1958? Guarda, comincio a rispondere io, Steve, se mi permetti. Secondo me ora è il momento di godersi questi due piccoli miracoli che abbiamo realizzato io e Lele, perché sono davvero libri che abbiamo curato come fossero veramente le creature da costruire passo passo. Non vogliamo gonfiare, iniettare nel mercato della letteratura, dei libri, ulteriori libri fatti in fretta o non riflettuti bene. Pensiamo veramente a quello che veramente, diciamo, serve al lettore, alla nostra società, per cercare magari di, e pensiamo veramente a un futuro, un altro seguito, però ben identificando ciò di cui veramente il mercato ha bisogno, certo. Non per produrre per il fine stesso di produrre, sarebbe un gravissimo errore e andremo contro forse i nostri principi. Non si poteva dire meglio, non si poteva dire meglio. Però dai, così, per un pur parler, ma se dovesse scegliere un autore, un cantautore a cui dedicare dopo Gaber un libricino specifico, insomma, pensando anche agli altri 68 che ci sono in voci libere, chi sarebbe, Emanuele? Ma sicuramente Fabrizio De André, però è un autore molto completo, vabbè che anche Gaber lo è, insomma. Cioè quelli che hanno raccontato la sua, se vogliamo, che ha creato una letteratura anche in musica, Paolo Conte. Cioè ce ne sono diversi, dipende dall'approccio che si vuole dare, da come... Certo. Cioè, sì, è vero che vedere anche Conte è stato uno che magari a volte anche questo, a volte visto come troppo complesso, e basterebbe appunto cercare di superare un po' questi valichi finti che si pone per approcciarsi alla sua conoscenza in maniera bella, leggera e felice. Sì, Conte ha creato un mondo letterario, anche lui a suo modo ha raccontato il miracolo italiano, però ha creato uno stile, cioè, però vabbè, magari ci vorrebbero anche appunto competenze letterarie per raccontare. Gaber, certo. È stato più facile scrivere un libro perché era un tipo diverso rispetto, poi ogni cantautore, scrivere un libro non è come scrivere alcune pagine, insomma, bisogna approfondire di più, certo. Quindi bisogna anche sentirsi in grado di farlo. Però vediamo, dai. Vi lasciamo tempo per riascoltare molti di questi cantautori e magari documentarvi ancora di più e vediamo se uscirà ancora qualcos'altro. Intanto ricordiamo Voci Libere, storia della canzone d'autore italiana di Luigi Cuna e Emanuele Felice, che sono stati nostri ospiti quest'oggi, appena uscito per Edizioni Curci con le illustrazioni di Alessandro Ventrella, e poi appunto il libro su Giorgio Gaber per lo stesso editore. Emanuele e Luigi, grazie di essere stati con noi e in bocca al lupo con questa pubblicazione. È stato un grande grande piacere, Steven, grazie infinite. E grazie ciao a te, Steven, ciao a tutti e a tutti. Ciao, ciao. Andiamo ad ascoltarci un'altra voce femminile. Prima si menzionava Gianni Russo, andiamo ad ascoltarci Milva, Tempi moderni, era il 1982. Che voce, Milva, la pantera di Goro per questa Tempi moderni dell'82. Banzo, è sempre difficile, no? Scegliere delle canzoni quando abbiamo una puntata dedicata a un libro che racconta in realtà un po' tutta la storia della canzone d'autore italiana. Cioè, potremmo fare veramente varie stagioni di Zibaldone scegliendo canzoni, insomma, dai 69 artisti contenuti in questo libro di Emanuele Felice e Luigi Cuna. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di fare, anche con l'aiuto di Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo, è stato andare un po' innanzitutto a cercare canzoni o artisti forse tra i meno ovvi, e dall'altra anche di magari unire, come abbiamo fatto prima anche per Lauzi e Fossati, più artisti contenuti in voci libere allo stesso tempo. È anche il caso di Milva, almeno di Milva e Battiato per questa canzone. Beh sì, purtroppo va anche detto che in una puntata dedicata alla canzone d'autore io parlerei per 3-4 minuti solo del basso di Paolo Donnarumma, che è veramente fantastico. Tu sai che io sono un grande amante del suono del basso, e qui veramente strepitoso. Però sì, giustamente, come sottolineavi, abbiamo cercato ancora una volta di unire due artisti ed è un matrimonio particolarmente felice che ha dato dei frutti oltre a questo disco del 1982 che si intitolava Milva e dintorni. Quindi abbiamo, mai detto, Milva ovviamente alla voce, Battiato alla scrittura, alla produzione, con tutta la sua factory di allora. Quindi abbiamo Giusto Pio, abbiamo Radius alla chitarra, il bassista l'ho già detto e potrei ricominciare a parlare del basso, e comunque la collaborazione fra Milva e Battiato, che sono effettivamente due nomi che meritano appieno di stare nella lista di voci libere, avrà altri, come avevo detto, altri capitoli, perché nell'89 uscirà Svegliando l'amante che dorme, che contiene un pezzo bellissimo con i processi del pensiero, e anche Non conosco nessun Patrizio del 2010, che è l'ultimo album di Milva prima del ritiro dalle scene. E citavo i processi del pensiero perché è un brano che oltretutto ha una tecnica classica di Battiato, il pastiche linguistico, perché quello mescola italiano e tedesco, mentre qui abbiamo italiano e francese, per una canzone che, come faceva spesso Battiato in quel periodo, riflette sull'attualità, sempre con quello sguardo obliquo. E come dicevamo per Bennato, anche qui è un'attualità che vale ancora al giorno di oggi, perché abbiamo il testo Non finirà la voglia di scappare dai campi di sterminio che questa civiltà produce senza tregua né pudore mentre la gente dorme, e stiamo vivendo la situazione, per non dire genocidio, della Palestina, l'ultima fase da un paio di anni, ma ne abbiamo parlato approfonditamente qualche settimana fa. Eh sì, tra l'altro, insomma, in questo album era contenuta anche la famosissima Alexander Platz, no? E era un momento di sperimentazione per Milva, che aveva anche collaborato poco prima con il greco Vangelis. E tra l'altro, insomma, prima parlavamo con Luigi Cuna di Giuni Russo. Ecco, erano gli stessi anni in cui Franco Battiato e il suo team collaboravano anche con Giuni Russo oltre che con Milva, quindi questo è anche, credo, importante ricordarlo. E sono sicuro di avere già detto questa cosa di Baldone, però la prima metà degli anni 80 per Battiato è un periodo incredibile, perché sostanzialmente lui si alzava la mattina e scriveva un pezzo incredibile che finiva o su un suo disco o su uno dei su un disco dei molti artisti con i quali collaborava, in questo caso abbiamo detto Milva e Giuni Russo, sì, era una vena creativa virtualmente inesauribile. Inesauribile, no, davvero. E noi andiamo avanti, in realtà andiamo indietro di qualche anno, perché andiamo ad ascoltarci un brano di un altro artista contenuto in voci libere, che forse appunto quando si pensano alla storia della canzone d'autore italiano, insomma, non lo si ricorda tanto, Banzo, che è Sergio Caputo. Anche perché, dicevamo prima, l'identità rock di Bennato, ecco, quella di Caputo è un'identità un po' diversa, perché viene associata ai suoi più grandi successi dalle atmosfere, diciamo così, swinganti, quindi Sabato Italiano, Italiani Mambo, che sono fra i suoi brani più celebri, mentre il brano che andiamo a sentire adesso è, faccio spoiler, di taglio più cantautorale, perché abbiamo la produzione di Ernesto Bassignano, nome molto noto agli ascoltatori di Zibaldone, e alla chitarra Andrea Carpi, che all'epoca suonava con Venditti, quindi diciamo che siamo a un cantautorato folk impegnato. Il brano si intitola Libertà dove sei, magari lo analizziamo brevemente dopo l'ascolto. Sì, ce l'andiamo a sentire. Sergio Caputo, era il 1978. Dove sei? Che ho cercata tanto ma non ti ho trovata mai. Ti ho cercata per le strade, nelle piazze e nei musei, in cantine fumose, nelle chiese e nei cortei. Libertà! Cercata all'osteria, ti solo innalzarti i monumenti. Libertà, dove sei? Libertà, dove sei? Certamente tu non sei nei salotti dei borghesi o nei ghetti dei plebei, non sei in giro per i bar o per le vie della città. Io non credo di trovarti in questa stanca civiltà. Libertà, questa canzone, anzi, nel 2018 l'ha ripubblicata in una nuova veste, Caputo, in un album intitolato Oggetti Smarriti, appunto dedicato ai brani meno ricordati della sua carriera, e lo presentava con queste parole: non ha nulla a che fare con la politica, bensì ha a che fare con la ricerca della libertà individualmente e spiritualmente. Non si può associare il concetto di libertà a un ordinamento politico-sociale di qualunque tipo, perché nel momento stesso in cui deleghi qualcun altro, sia lo Stato o sia una religione, a stabilire le regole della tua libertà, da quell'istante non sei più libero. La ricerca della libertà, scriveva Caputo, viene da dentro di noi, regola le nostre azioni e il nostro modo di essere. Banzo, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Zibaldone e come sempre ci rimane il tempo per un ultimo brano, l'ultimo trago che ci porta sempre un po' al di fuori dell'Italia, ma in realtà rimane molto legato alla puntata di quest'oggi. Esatto, perché vi presentiamo un brano di Giorgio Gaber in un'altra lingua. Insomma, Gaber lo abbiamo ascoltato prima con uno dei brani più emblematici del teatro canzone, ma adesso torniamo al primo periodo di Gaber, quello più leggero, quello più ironico delle canzonette, con una cover del celeberrimo Una fetta di limone, però non in spagnolo ma in francese, perché ormai da un po' di tempo abbiamo aperto anche ad altre lingue, scelta che ci rende molto felici perché troviamo cose improbabili. La fetta di limone nel brano di Gaber con testo di Umberto Simonetta era sostanzialmente l'unica richiesta di un ragazzo che cercava di sfuggire all'avance di una vecchia ricona che veniva descritta così: sei ricca ma sei racchia, in modo che adesso insomma non sarebbe più affine alla sensibilità del momento, diciamo. Abbiamo un tè col limone. Invece in questa canzone che andiamo ad ascoltare, francese di Edmond Taillet, abbiamo del limone nell'acqua fresca, è proprio il titolo, du citron dans de l'eau fraîche, e spariscono i riferimenti estetici alla vecchia seduttrice che diventa una marchesa in questa versione, ed è comunque anche una canzone abbastanza peculiare a livello esistenziale, perché per Gaber avevamo un brano di due corsari, Iannacci, un'amicizia che dura tutta la vita, una carriera musicale immensa. Invece Edmond Taillet abbandonerà la musica di lì a poco, e a cosa si dedicherà? Ecco, questo è il punto, perché è da raccontare come è continuata dopo gli anni 60, dopo la musica degli anni 60, la vita di Taillet, Banzo. Infatti stavo per dire cosa si dedicherà, alla falegnameria, ma no, qualunque altra cosa, no, al traffico di droga, ecco. Sostanzialmente, ma di alto livello, altissimo livello, non cosette, perché ci troviamo con delle quantità di droga assurde, perché ad esempio nasconde 250 kg di eroina, 250 kg, ripeto, nell'attrezzatura, negli strumenti musicali della crew di Johnny Hallyday, che stava andando a Montreal, quindi insomma sempre in terra francofone, però in Canada, e poi creando una rete di corrieri automobilistici, ma involontari, quindi la droga probabilmente veniva caricata a loro insaputa fra la Francia e il Canada degli Stati Uniti, e viene anche arrestato lui in prima persona con 93 kg di eroina, quindi forse adesso sarebbe più il cocco, come dicono a Roma. E niente, viene arrestato dall'FBI nel 1971, 93 kg di eroina evidentemente si deduce che non sono per uso personale, quindi intuendo la malapparata decide di diventare collaboratore di giustizia per sfangarla a una pesantissima condanna. Poi non so come gli sia andata, ma è venuto a mancare nel 2008. Comunque anche Giorgio Gaber che menzionavi, Enzo Iannacci, oltre a Giorgio Gaber, è contenuto ovviamente in Voci Libere. Con questa canzone, con questo brano, chiudiamo la puntata dello Zibaldone di quest'oggi, Edmond Taillé, Du Citron dans de l'eau fraîche, e noi ci ritroviamo venerdì prossimo. Banzo, grazie come sempre, buon venerdì sera, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 17:58 quasi diceva tutti i venerdì: forse nella versione francese sparisce il tè e appare l'acqua, perché il tè sarebbe stata considerata un'odiosa concessione agli inglesi, quindi non so, meglio l'acqua fresca, ecco. Chiediamolo all'FBI, magari loro lo sanno perché gliel'ha raccontato Taillé. Bye bye. Ma sicuramente. Ciao ciao. Marquise, vous vous êtes méprise. Marquise, sûrement l'air de convoitise. Non, je n'aurai pas la faiblesse, non, de céder à vos largesses. À votre engageant sourire, je dis non, non, non. Non à votre richesse, à votre promesse de futures caresses. Je n'aime que la paix, rester décontracté, tout seul sur mon canapé, ouais. Mais si vous y tenez, si votre cœur insiste, sachez ce qui m'attriste. Au soleil, il fait si chaud, j'ai très soif et il me faut du citron dans de l'eau fraîche, du citron dans de l'eau fraîche, du citron dans de l'eau fraîche, du citron dans de l'eau fraîche. C'est tout. Marquise, vous êtes méprise. Marquise, sur mon air de convoitise. Non, vous n'aurez pas ma jeunesse, non, ne flattez pas ma paresse. À votre air machiavélique, je dis non, non, non. Je veux rester mon maître, sans bateau de 6 mètres, et seul à ma fenêtre. Je n'aime pas chasser, et encore moins naviguer, j'aime mieux rester couché, ouais. Mais si vous y tenez, écoutez ma prière, offrez-moi donc un verre. Au soleil, il fait si chaud, j'ai très soif et il me faut du citron dans de l'eau fraîche, miam. Du citron dans de l'eau fraîche, miam. Du citron dans de l'eau fraîche, du citron dans de l'eau fraîche. Glou glou glou glou, c'est tout.